Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tutte le forze politiche ora hanno cambiato idea, sono tutti favorevoli a fare le riforme. Bello, perché ma è positivo. Un mese fa sembrava che ci avessi la peste, io dicevo Renzi vuol fare le riforme, ora sono tutti per fare le riforme. Bene, si tratta di mettersi intorno a un tavolo, o meglio ancora via email, che si fa prima, e cerchiamo di essere operativi. Questa è la settimana in cui le cose si decidono. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa settimana che inizia, dove le cose si decidono. Avete sentito Renzi con una certa soddisfazione un po' sardonica commentare queste aperture nei suoi confronti da parte di Matteo Salvini della Lega sulle riforme, in particolare titolo quinto e riforma del Senato, e quella anche forse più inaspettata di Grillo sulla legge elettorale. L'aveva scritto ieri sul blog e oggi è tornato a confermare, a dire guardate che il Movimento 5 Stelle vuole fare sul serio, quindi un'apertura di dialogo verso Renzi per la riforma elettorale. Poi ne parleremo in modo approfondito. Mi piacerebbe che anche voi, naturalmente, come sempre, scriveste i vostri commenti sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Cosa ne pensate? Come giudicate questa richiesta di confronto, di dialogo di Grillo con Renzi? C'è chi si fida, chi non si fida. Poi ne parleremo anche con diretti interessati dei due partiti. Intanto, mentre voi fate le vostre riflessioni, vi dico che però la notizia grossa della giornata è stata questa svolta in un delitto che sembrava irrisolvibile fino a qualche tempo fa, oppure c'era una pista ma non si riusciva a sbloccarsi dal punto in cui si era arrivati, e tra poco ne parleremo, lo sentirete dai titoli che vi elenco tra pochi istanti nel riassunto della giornata. Il delitto di Yara Gambirasio: Alfano annuncia che è stato fermato l'assassino, è un muratore quarantenne del Bergamasco con tre figli. La famiglia sterminata vicino Milano: è stato il marito a uccidere moglie e figli poiché è innamorato di un'altra ma non corrisposto. Renzi all'assemblea di Confindustria, Vincenza Verona: contro la corruzione ci vogliono regole chiare, dice. Sulla legge elettorale Grillo insiste: noi vogliamo fare sul serio. Maltempo: Roma in ginocchio per il nubifragio d'estate, aperta un'indagine. Maltempo fa paura ai danni, bombe d'acqua a Napoli e in Sardegna. Schumacher è fuori dal coma, il primo passo lungo la sua ripresa. E poi i mondiali, dopo Germania e Portogallo, stasera Iran-Nigeria, intanto gli azzurri si preparano ad affrontare il Costa Rica. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, con la svolta insperata, almeno fino a qualche tempo fa, dopo una lunga attesa, varie piste, migliaia di DNA rilevati, poi la scoperta di un DNA di un defunto che poteva portare all'assassino, quindi la svolta sull'assassino della piccola Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, vicino Bergamo, scomparsa, ricordate, il 26 novembre 2010, e poi ritrovata morta tre mesi dopo in un campo. Il ministro dell'Interno Alfano ha annunciato nel tardo pomeriggio che sarebbe stato preso l'assassino, un muratore incensurato, vero Raffaella Calandra? Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì. Si tratta di Massimo Giuseppe Bosetti, che è un muratore incensurato con tre figli, originario di Clusone nel Bergamasco. È lui l'uomo che, secondo gli inquirenti, sarebbe ignoto uno, così come avevano identificato il responsabile dell'assassinio di Yara Gambirasio, ossia l'uomo che era stato identificato perché quello che corrispondeva alle tracce del DNA che erano state individuate sugli indumenti della tredicenne uccisa appunto a Brembate di Sopra. Quasi quattro anni dopo ora finalmente c'è un nome ed è stato appunto fermato colui che è accusato di averlo ucciso. Durante l'interrogatorio il principale sospettato, appunto Bossetti, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non ha risposto agli inquirenti, ma il GIP ha convalidato comunque il suo fermo perché evidentemente gli indizi contro di lui sono molto forti. Indizi che sono soprattutto quelli, oltre ad un'inchiesta diciamo di tipo tradizionale, ma sono soprattutto quelli ricavati, come ricordavi, dagli esami del DNA, perché è da lì che c'è stata la svolta nelle indagini su questo misterioso delitto che per tre anni diciamo non aveva portato ad una soluzione concreta. Nel momento in cui è stato individuato il DNA prelevato dagli indumenti della vittima con quello di un autista di Gorno morto nel 99, Giuseppe Guerrinoni. Per mesi si è cercato di capire e di individuare chi fosse il figlio illegittimo di questo autista, si è cercato di ricostruire appunto chi fosse la donna con cui aveva avuto una relazione, testimonianze di vario tipo locali, e poi la conferma con un tampone hanno permesso di individuare quello che sarebbe il figlio, e quindi oggi c'è stata questa svolta nel delitto, il suo figlio fermo, l'interrogatorio però appunto senza risposte, e però appunto gli inquirenti sono convinti, come dicevamo, che è lui appunto ignoto uno, ossia l'assassino di Yara. Ricordiamo anche che prima di arrivare a questa svolta erano stati fatti esami a tappeto del DNA anche proprio di interi borghi del Bergamasco, e ricordiamo anche come tempo fa c'era stato già anche un primo sospettato per la morte di Yara, che poi invece era stato scagionato. È stato un caso molto difficile, molto delicato, e ricorderanno i nostri ascoltatori anche, oltre alle richieste diciamo della famiglia ovviamente per avere una risposta, anche le polemiche che c'erano state, perché dopo 3 anni non si vedeva la strada diciamo di una svolta, che invece poi adesso in queste ore è avvenuta, ma era cominciata diciamo nei mesi scorsi quando questo DNA aveva fatto ricostruire un identikit, e quindi a quel punto poi è stato un lavoro meticoloso di ricerca e di esame molto molto intricato, ma addirittura l'ha annunciato Alfano questa notizia oggi, quindi sarà il ministro della notizia dell'individuazione. Dopodiché hanno i giornalisti il compito di ricostruire tutto certo. Il resto. Grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao, e adesso poi ci tocca restare su questi temi con l'ennesimo femminicidio, un orrore in cui non sono stati risparmiati in un paese vicino a Milano nemmeno i figlioletti. Ha ucciso la moglie Cristina, 38 anni, e i due figli, Giulia di 5 e Gabriele di neanche 2 anni. Poi Carlo Lissi, marito e padre delle vittime, è andato dagli amici, come da programma, a vedere la partita della nazionale italiana. È stato lui stesso a raccontare durante un duro interrogatorio quanto realmente accaduto sabato sera nella villetta di Motta Visconti, dove abitavano. Passionale il movente, ha confermato il comandante provinciale dei Carabinieri, Maurizio Stefanizzi. Lissi era invaghito di una collega e considerava la famiglia un ostacolo ad una passione comunque non corrisposta. A un certo punto psicologicamente è crollato, e il momento del crollo, dopo essersi messo in assortimento a riflettere con la testa tra le mani, ha detto: voglio il massimo della pena. Il suo racconto ha anche consentito di ritrovare l'arma del delitto, un coltello abbandonato in un tombino, e di sgombrare il campo dalle altre ipotesi, come la rapina, che pur aveva tentato di inscenare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ne parleremo di questo caso più tardi col presidente dei psichiatri italiani, anche se questo uomo ha dato prova di essere molto lucido in quello che poi ha fatto, la messa in scena eccetera dopo il delitto. Ma passiamo alla politica intanto. Renzi oggi era nel nord-est post voto all'assemblea di Confindustria Verona e Vicenza. Al centro del suo discorso, riforme e corruzione. Sentiamo un passaggio. E allora è bene dire che la semplicità è la prima regola per evitare i giochini sulle tangenti. Ed attenzione, quando noi diciamo che ci vogliono più regole chiare, diciamo anche che non è possibile avere tutte le volte una nuova autorità che fa i controlli e alla fine si scopre che in alcuni casi rubano anche le guardie, non soltanto i ladri. Per rispetto a questo paese, chiarezza sulle regole, ma semplicità e sblocco degli investimenti immediati. Questo è il punto centrale. E a proposito di riforme, in primo piano c'è la legge elettorale, sulla quale ieri, dicevo, c'è stata l'apertura a un confronto da parte di Grillo, che oggi ha ribadito che il Movimento 5 Stelle intende far sul serio. Uscire dal limbo con il Democratellum, il Movimento 5 Stelle conferma l'apertura verso il governo per cambiare la legge elettorale. Facciamo sul serio, scrive Beppe Grillo sul blog, mentre i parlamentari indicano una conferenza stampa per spiegare il sistema di voto prescelto dal Movimento. E Luigi Di Maio illustra il perché del cambio di politica 5 Stelle. Prima delle europee noi eravamo convinti che poteva far cadere il governo Renzi. Noi abbiamo una responsabilità in questo momento, che è quella di intervenire nel processo di formazione della legge elettorale, perché noi ne abbiamo una. Dall'altra parte mi sembra che ci sia un impasse, mi sembra che ci sia un pantano, così altrimenti siamo costretti in un limbo. L'Italicum è moribondo, dice poi Maurizio Buccarella, capogruppo al Senato, se non deceduto. Il sistema votato dal Movimento 5 Stelle è un proporzionale con circoscrizioni piccole che permettono all'elettore di conoscere i candidati e di di sceglierli. Scettiche sull'apertura le altre forze politiche. Per Paolo Sisto, Forza Italia, quella di Grillo è un'azione di disturbo dell'asse forzista PD. Per Gaetano Quagliariello, Nuovo Centrodestra, bisogna prima partire dalla maggioranza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come vi ho detto, sentiremo di questo possibile confronto, parleremo di questo con la vice segretaria del PD Deborah Serracchiani e con l'esponente del Movimento 5 Stelle Danino Toninelli, sapete se riusciremo a raggiungerli, a volte sapete imprevisti, quindi rimango sul condizionale. E poi invece adesso parliamo di tasse, oggi è il lunedì nero delle tasse con le scadenze IMU e TASI, giornata di caos quindi per i pagamenti. Confedilizia, l'organizzazione dei proprietari di case, chiede ai comuni una proroga della scadenza. Sentiamo allora cosa è successo a Milano nelle interviste di Marisa Labanca. Abbiamo avuto enormi problemi perché nessuno ci ha detto niente, siamo dovuti andare al CAF, abbiamo dovuto prendere appuntamento oltre la data e ci ritroviamo all'ultimo giorno senza sapere il perché. Da quanto tempo è qui? 20 minuti. Molta fila? Sì, parecchio. Lunghe code agli sportelli oggi per la TASI? Sì, tutti all'ultimo momento, purtroppo hanno deciso l'ultimo momento, quel giorno lì e via il giorno 16, ma hanno fatto un lavoro fatto male. Ci sono quelli che devono pagare, quelli che non pagano l'IMU, quelli che devono pagarla, ha fatto un po' un disastro. Pensate che Renzi oggi ha detto: io ci ho capito poco anch'io sulla TASI, quindi se lo dice lui, che Presidente del Consiglio, figuriamoci cosa ci possiamo capire noi. Adesso però spostiamoci all'estero, sulla crisi ucraina, perché è a rischio il metano verso l'Unione Europea. L'Ucraina non paga i debiti nei confronti della Russia, saltano i negoziati e Mosca interrompe le forniture di gas a Kiev. Stamattina l'annuncio di Gazprom. Dalle 10 del mattino di oggi, ora di Mosca, Naftogaz Ucraina riceverà solo la quantità di gas per cui avrà pagato, ha spiegato il portavoce del colosso russo del metano. Blocco delle forniture confermato dal ministro dell'energia ucraino, Yuri Prodan, il quale ha però garantito che il flusso del metano verso l'Europa proseguirà. Poco convinta Bruxelles, intenta a mediare. C'è il rischio che quest'inverno l'Europa debba fare i conti con una carenza di gas, ha dichiarato il commissario europeo all'energia Oettinger. Intanto sia Gazprom sia Naftogaz si sono rivolte alla Corte di Stoccolma. La prima chiede il pagamento di 4,5 miliardi di dollari da parte della società ucraina, che invece pretende venga stabilito un prezzo equo per le forniture di gas. Livia Zancaner, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E siamo all'estero per parlare di Iraq. Il presidente americano Obama incontrerà questa sera il team per la sicurezza nazionale per fare il punto sulla situazione nel paese che sapete ormai sempre più nel caos. L'ha detto, secondo quanto riferisce la CNN, il portavoce della Casa Bianca, Josh Ernst. Adesso invece in Italia per occuparci del maltempo che fa paura e danni. Stazioni metro chiuse nella capitale e a Napoli, alberi caduti vicino al Colosseo, via dei Fori allagata, tempeste d'acqua in Campania, in Sardegna, nel Barese. Strade chiuse, voragini, gente rifugiata sui tetti dal Lazio alla Puglia. Coldiretti parla di un disastro anche per i campi. Poi capiremo quali sono le previsioni per domani, possibilmente anche per dopodomani, dal colonnello e per i prossimi giorni dal colonnello Giuliacci a fine puntata. E le buone notizie invece arrivano oggi dalla Svizzera su Schumacher. Giungono notizie incoraggianti che ci danno speranza. Così la Ferrari su Twitter commenta l'uscita dal coma di Michael Schumacher, che oggi ha lasciato l'ospedale di Grenoble per cominciare una nuova fase di riabilitazione in un centro svizzero. Il campione di Formula 1 era ricoverato nel nosocomio francese dallo scorso 29 dicembre dopo un gravissimo incidente sugli sci. I netti miglioramenti delle sue condizioni di salute registrati nelle ultime settimane hanno indotto la famiglia a rompere il silenzio stampa per 24 ore e a diffondere notizie sullo stato di salute del loro congiunto. Più frequenti momenti di coscienza di Michael Schumacher, che riuscirebbe a comunicare con la moglie Corinne e i figli. A quanto si apprende, l'ex pilota di Formula 1 non ha problemi di vista e le sue condizioni sono tali da consentirgli di lasciare gli specialisti di Grenoble che lo hanno seguito sin qui. Schumacher si trova ora al centro ospedaliero universitario del Vaud a Losanna, in Svizzera francese. La sua famiglia è con lui in uno spazio appositamente attrezzato per proteggere la loro privacy e per garantire la migliore assistenza possibile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura il calcio con i mondiali, vi comunico che Germania-Portogallo è finito 4-0 per la Germania, uno sfacelo praticamente per il Portogallo, ma poi stasera parleremo più tardi anche di invece Iran-Nigeria, partita di questa sera che dovrebbe essere iniziata da circa 10 minuti. Comunque intanto mi fermo, così aggiorniamo chi viaggia con le viabilità. Voi continuate a fare i vostri commenti o al 349-238-6666, questi sono gli sms, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di questa richiesta di dialogo di Grillo nei confronti di Renzi sulle riforme. riforme. Vedo per esempio, intanto saluto Duck Duck, poi dice un ascoltatore, Franco, negli ultimi mesi l'attenzione dei media è rivolta verso PD e Movimento 5 Stelle, creando un vuoto di informazione, per esempio al congresso di sabato di SEL, anche per capire cosa succede a sinistra. Beh, certo, quando ci sono dei soggetti politici che prendono la scena, effettivamente può succedere questo. E poi un altro ascoltatore scrive, Grillo fa solo esclusivamente ciò che gli conviene, tattica pura, il degno successore di Berlusconi. Poi ne parleremo, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve ne ricordo subito le notizie, vi ricordo anche che tra pochissimo parleremo, appunto, dicevo, di questa apertura tra Grillo e Renzi, soprattutto richiesta da Grillo nei confronti di Renzi. Anche Salvini in questi giorni, no, del segretario della Lega, ha detto, ma sulle riforme, soprattutto titolo quinto e Senato, vorremmo avere un confronto. Che cosa ne pensate di queste aperture? 349-238-6666 per il messaggio, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo già diversi messaggi, però prima vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, invece di essere puntuali alle 21, se no, se l'avete già ascoltate, ve li ricordo un'altra volta le notizie importanti. Grillo scrive al Presidente del Consiglio, rifacciamo le riforme insieme, e poi dice, noi del Movimento 5 Stelle facciamo sul serio, intanto Renzi vede Napolitano. A proposito di tasse, Renzi ha detto abbiamo abbassato le tasse, ma prima la rivoluzione della semplicità, dall'IMU a Tasi, anche oggi ha detto che non ci ha capito molto sulla Tasi. Preso l'assassino di Yara Gambirasi, un muratore bergamasco con tre figli, interrogato non ha risposto al PM, l'annuncio è stato dato in serata da Alfano. Uccide moglie e figli, amavo un'altra, ora merito l'ergastolo. Il motivo di questa molla che ha fatto sterminare la famiglia a un uomo di Motta Visconti vicino Milano sarebbe una passione non corrisposta. E poi per Schumacher pare ci siano buone notizie, esce dal coma, trasferito in un centro a Losanna. Per l'Iraq USA Iran più vicini. Kerry, il segretario di Stato americano, dice non è esclusa un'intesa militare con l'Iran, e poi anche l'opzione droni. Abbiamo parlato del maltempo con roba in ginocchio per il nubifragio d'estate, aperta un'indagine, bombe d'acqua anche a Napoli e in Sardegna. E poi per i mondiali Germania e Portogallo che è finita 4-0, e più tardi ci aggiorneremo sulla partita di questa sera. Parlavamo appunto di questa richiesta di confronto da parte di Grillo, che ha scritto al Presidente del Consiglio, facciamo le riforme insieme, vogliamo andare avanti seriamente. Quindi ha insistito, poi dopo aver fatto questa richiesta insieme a Casaleggio ieri, Grillo oggi ha riconfermato, insomma, con una lettera al capo del governo che vorrebbe questo incontro. Renzi aveva detto lo facciamo in streaming, l'aveva preso poi in contropiede, Grillo ha detto vabbè, facciamolo in streaming per essere trasparenti, cerchiamo un accordo sulla legge elettorale, che sarebbe la proposta del Movimento 5 Stelle, si chiamerebbe Democratellum. Allora Renzi ha avuto un'apertura nei confronti di Grillo, il Movimento 5 Stelle piuttosto prudente al momento, perché dice insomma, stiamo a vedere, ha paura forse di una trappola, di un qualche accordo trasversale per salvare un sistema proporzionale che a lui è particolarmente inviso. E comunque ha dato mandato ai suoi vice Guerini e Serracchiani di dare una risposta a Grillo. E quindi saluto Deborah Serracchiani. Buonasera. Buonasera, Presidente. Buonasera a voi. Vice segretaria del PD e nonché presidente del Friuli Venezia Giulia. Quindi intanto che di primo acchito la reazione qual è stata? Ve l'aspettavate questa richiesta di Grillo, e poi quale sarebbe la risposta, insomma, ufficiale? Ma sinceramente non ci ha colto impreparati, anche perché credo che sia la conseguenza diretta del voto delle europee, aver avuto un partito, il Partito Democratico, che raggiunge il 40,8% e che gestisce soprattutto la vittoria dettando un'agenda forte, determinata in Europa e in Italia, non può non costringere ad una riflessione chi le elezioni le ha perse, insomma. E credo anche che sia la conseguenza di anche altre aperture che voi ricordavate, penso ad esempio a quella della Lega Nord sul titolo quinto e sul Senato, che fungono un po' da necessità, diciamo così, di riappropriarsi degli spazi. Ecco, questo mi pare che non ci colga impreparati per questo. Dopodiché, se si tratta solo di tattica politica, se si tratta solo di riprendere la scena per un po' di tempo, se si tratta solo diciamo così di farsi dire di no, non ci interessa. Se invece, come pare oggi ribadire, c'è una serietà in questi intenti, e cioè c'è la volontà davvero di partecipare al cambiamento e alle riforme, noi ci siamo, come abbiamo sempre detto dall'inizio. Serracchiani, io le faccio sentire che cosa ha detto Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, che insomma, oltre a Grillo, che diciamo ha riconosciuto, sempre appunto dice lei se non abbia tattiche sottostanti, insomma, ha detto Renzi è stato legittimato dal voto, insomma, con l'Europa ha dimostrato che ha consenso, che c'è appoggio popolare, quindi dobbiamo riconoscerlo. In più Luigi Di Maio oggi ha detto una cosa anche qui che rivelerebbe una certa consapevolezza, una presa di coscienza, una certa sincerità. Sentiamo. Qual è la garanzia in questo momento per il Movimento 5 Stelle? È che qualsiasi cosa ci diremo a quel tavolo, ovviamente in streaming, sarà comunque ratificata dai nostri iscritti, che sono quelli che hanno fatto la legge elettorale, e quindi se reputeranno quelle eventuali modifiche disponibili, tollerabili, allora lo ratificheranno. Io credo che questa sia una fase successiva a quel risultato, partendo dal presupposto che in questo Parlamento ci dobbiamo stare, noi contavamo di aprire una crisi di governo, non è stato possibile. A quel dato noi rispondiamo adesso con la responsabilità di portare a casa questi provvedimenti. Quale in primis? Una legge elettorale, perché così altrimenti siamo costretti in un limbo, tutte le forze politiche sono costrette in un limbo in questo momento. Quindi Di Maio da una parte dice, rivela, confessa, come vogliamo dire, confida, ma così pubblicamente, volevamo far cadere il governo, speravamo in queste elezioni di avere insomma un risultato diverso, è andata come è andata, e quindi a questo punto per non rimanere nel limbo, probabilmente anche poi chiederemo al deputato Danilo Toninelli tra poco, so che lei deve andare, Presidente Serracchiani, quindi sentiamo prima lei. Dicevo, quindi da una parte c'è questa sincerità di Maio, e dice non possiamo rimanere in limbo, facciamo opposizione ma dobbiamo avere un certo peso politico a un certo punto, probabilmente anche per una contestazione e richiamo della base elettorale. Che dice? Ma credo, come le dicevo prima, è un po' la conseguenza di quel voto, anche perché vede, gli italiani hanno dato credito a Matteo Renzi e al Partito Democratico con un 40,8%, direi storico se non epocale, sulla base di un piano di riforme che ha investito sicuramente i nostri rapporti con l'Europa, ma che non tanto e non solo per una nostra richiesta, anzi direi che è stata una richiesta fatta proprio dal Movimento 5 Stelle, ha interessato soprattutto il progetto per l'Italia. E gli italiani ci hanno dato quel voto perché convinti di quelle riforme, quindi se vuole anche convinti di come abbiamo portato avanti la riforma del sistema elettorale. Loro hanno una proposta, è una proposta che hanno discusso in rete, è una proposta che per alcune parti francamente non mi sembra assolutamente, come dire, una base sulla quale discutere, mi riferisco al proporzionale, penso anche che troverei abbastanza discutibili le preferenze in negativo, cosiddette preferenze in negativo, ma insomma è una base di discussione, noi ce l'abbiamo, si chiama Italicum, l'abbiamo convenuta con diverse forze politiche. Ora che finalmente il Movimento 5 Stelle, ci è voluta una sconfitta elettorale, passa dal voler mandare tutti a casa finalmente a discutere di riforme, a noi non può che farci piacere, ma ci fa piacere da cittadini italiani prima ancora che da politici. Come le dicevo prima, speriamo che sia sincerità, ecco, che ci sia della verità in queste parole e che ci sia un'esigenza, che non è solo il fatto che c'è una base rivolta, che c'è una discussione aperta con alcuni sindaci, credo che sia, spero, la maturazione di una forza politica che passa dal voler mandare tutti a casa a voler far qualcosa per il paese. In fondo siedono in Parlamento, è anche arrivata l'ora. Ecco, quindi lei diceva, Presidente Serracchiani, che una sintesi al momento, soprattutto su certi aspetti, le sembra un po' difficile con il Democratellum. Se la sintesi e la base è il testo del Movimento 5 Stelle, noi ripeto, siamo sempre pronti a discutere con tutti, ma onestamente abbiamo un testo che è il frutto di un accordo che è stato fatto con Forza Italia, con Nuovo Centrodestra, con Scelta Civica, ed è una base nella quale crediamo molto, dove ci sono dei paletti che sono per noi non modificabili. Il fatto ad esempio che ci sia una riforma elettorale che finalmente consegni questo paese alla governabilità, cioè che si sappia il giorno stesso delle elezioni, dopo lo spoglio, chi ha vinto e chi governerà, è per noi una condizione ineliminabile. Non crediamo che il proporzionale vada in questa direzione, tanto più che creerebbe delle incomprensibili frammentazioni in un paese che finalmente sta andando verso una polarizzazione della politica, per cui ci sono alcune cose sulle quali, ripeto, ognuno di noi ha dei paletti, altre sulle quali si può aprire una discussione. Del resto noi non sappiamo neppure quello che pensano veramente i parlamentari del Movimento 5 Stelle, posto che non hanno mai voluto aprire alcuna forma di dialogo, per cui guardiamo con interesse a questa rinnovata voglia di partecipare. Devo anche prendere atto che c'è un po' di confusione, ma credo che questo faccia parte, insomma, delle difficoltà di dover gestire una forza politica, dicono di voler supportare dal voto della rete qualunque decisione prenderanno sulla legge elettorale, però si sono ben visti dal consultare la rete se era opportuno oppure no aprire al Partito Democratico. Adesso non voglio ovviamente fare una sottolineatura di questo tipo, però mi pare una discussione aperta nel movimento anche in questo senso. Lo chiederemo tra poco a Toninelli. Io le faccio solo quasi non glielo chiedo se può essere contento eventualmente di un possibile accordo, di una possibile intesa Berlusconi, visto che con lui Renzi, insomma, ha stretto un patto sulle riforme. Ma guardi, io credo che anche l'esito delle elezioni ponga un interrogativo a Berlusconi, insomma, è chiamato a decidere se farsi portatore di un cambiamento importante e consegnare al paese una riforma oppure se starsene a guardare. Io francamente credo che, almeno da quello che mi pare di comprendere, voglia continuare a far parte di questo, da protagonista di queste riforme. Noi abbiamo bisogno di farle e di farle in fretta e siamo determinati in questo senso, anche perché noi abbiamo preso un impegno con gli italiani. Sulle riforme non arretriamo, tra l'altro abbiamo fatto un'assemblea dove, insomma, anche rispetto alle nostre fibrillazioni interne abbiamo fatto chiarezza, abbiamo cercato di trovare dei punti in contatto, oggi ci sono state delle riunioni importanti nell'ufficio di presidenza del Senato con i parlamentari, con i senatori autosospesi, mi pare che, insomma, si vada nella direzione giusta. Io mi auguro e spero, ma glielo ribadisco da cittadina prima ancora che da politica, che ci sia la consapevolezza di quanto gli italiani veramente stanno guardando a noi come ad una soluzione e non più ad un pezzo del problema. Mi auguro che ci sia questa consapevolezza. Bene, io intanto la ringrazio e la saluto, Presidente Serracchiani. Grazie. Grazie a lei, buona serata. Buon lavoro, buona serata. E adesso Danilo Toninelli, del Movimento 5 Stelle, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buonasera, ha sentito tutto, no? Intanto. Buonasera, grazie di avermi invitato e ho sentito tutto, grazie. Grazie a lei di esserci, Toninelli. Allora, prima di spiegare al pubblico che ci ascolta con molta chiarezza e semplicità in cosa consiste il vostro Democratellum, quindi la vostra proposta di legge elettorale, mi dice, Toninelli, lei conferma i motivi di questa richiesta di accordo, di confronto, quelli addotti da Di Maio che facevo sentire prima, cioè vogliamo uscire dal limbo, vogliamo avere un peso politico, vogliamo essere un po' più un'opposizione costruttiva, insomma, e riconosciamo la legittimazione di Renzi a queste europee. Conferma quindi questi motivi? Io ovviamente li confermo e aggiungo anche dei contenuti, cioè che questa nostra questo nostro proporre quelli che sono frutto dei nostri lavori, cioè delle nostre proposte depositate, è un qualcosa che va avanti, non è un qualcosa che nasce oggi o col post di ieri sulla legge elettorale. Le ricordo solo la scorsa settimana che il Movimento 5 Stelle, nelle persone dei delegati della Commissione Giustizia, sono andati ad incontrare il Ministro della Giustizia Orlando portandogli delle proposte di leggi nostre depositate dal Movimento 5 Stelle sull'anticorruzione. O le ricordo anche l'esempio ancora della scorsa settimana sulla votazione che abbiamo fatto dei giudici della Corte Costituzionale e sulla richiesta che abbiamo fatto alle altre forze politiche di indicare prima delle votazioni in aula la loro rosa di candidati, per ottenere che cosa? Ottenere un accordo su uno dei quattro nomi da noi presentati come giudici della consulta e uno dei loro nomi, e ovviamente l'interlocutore era il PD e l'apertura era già stata fatta. È stata enfatizzata molto tra la giornata di oggi e di ieri, diciamo che un'apertura è un'apertura certamente, ma io ritengo che sia lo stesso modus operandi che abbiamo sempre portato avanti in questo poco più di un anno, con la differenza che ora stiamo proponendo delle proposte che prima non avevamo, perché la legge elettorale è una proposta depositata il 6 di maggio, ora ce l'abbiamo, siccome purtroppo non ce l'hanno considerata in queste settimane, l'abbiamo presentata direttamente al governo. Allora, quindi la presentiamo anche al pubblico, Danilo Toninelli, onorevole Toninelli, in modo il più chiaro e più sintetico possibile, proprio per far capire in cosa consiste e perché ci dovrebbe essere un'intesa sulla vostra proposta. Certamente con grande piacere. Innanzitutto è un sistema di legge elettorale che si fonda su un sistema proporzionale che è sensibilmente corretto, ben lungi da un sistema proporzionale puro, è un sistema molto corretto che avvantaggia e sovrarappresenta le forze politiche grandi e svantaggia e sottorappresenta le forze politiche piccole, perché c'è una fortissima selezione. Ciò significa che per ottenere seggi al Parlamento bisogna superare delle soglie di sbarramento importanti. importanti, che sono naturali all'interno delle circoscrizioni medio-piccole, in media di 15 seggi, che sono che all'interno delle quali si dividono i seggi. So che cos'è che comporta? Che si ha un fortissimo abbassamento della frammentazione partitica e di conseguenza la platea delle forze politiche che si affaccerà al Parlamento sarà molto limitata. Qual è la conseguenza diretta? Una conseguenza importantissima che penso che l'onorevole Serracchiani, la collega Serracchiani che ha appena parlato non abbia ancora ben capito, è quella di una forte governabilità. Io le faccio un paragone. Sì. La governabilità che si crea con il Porcellum e con l'Italicum e la governabilità che si crea col Democratellum. La prima è una governabilità frammentata e instabile perché si fonda su una cozzaglia di partiti inseriti in una coalizione che poi si presentano in Parlamento e se ne vanno ognuno per la propria strada. La seconda, la nostra, è una governabilità stabile perché i partiti non si presentano in coalizioni perché non c'è il premio di maggioranza, ma si presentano da soli, hanno la loro autonoma proposta politica e prendono voti da soli. Ciò comporta che cosa? Che col nostro sistema selettivo un partito, e sottolineo partito in una coalizione, può vincere da solo con intorno al 40-42%. Questa secondo noi è una governabilità che può permettere ad una maggioranza di governo di portare avanti tutte quelle che sono le proposte politiche per le quali hanno preso i voti, senza annacquarle con coalizioni preelettorali. Onorevole Toninelli, soltanto due domande a cui si può rispondere brevemente. Una, avete già fissato l'incontro o quando pensate di farlo? Guardi, noi stamattina abbiamo mandato ufficialmente la lettera di richiesta di incontro al governo. Non abbiamo ancora avuto una risposta ufficiale, ma pensiamo e vogliamo e speriamo che ci sia velocemente, che questo incontro ci sia. Noi è un importante, questa è un'apertura di merito importante, che rendiamo diciamo più fruibile, rendiamo più evidente. Prima lo facevamo, ma lo facevamo in una maniera diciamo meno eclatante, facevamo le nostre proposte di legge importanti, le depositavamo in Parlamento e non le divulgavamo all'esterno. Ora abbiamo imparato, e probabilmente questo è anche un effetto delle elezioni europee, dei risultati delle elezioni europee, abbiamo imparato, come con la legge anticorruzione, come con i giudici della Corte Costituzionale ed ora con la legge elettorale, a portarle fuori e a cercare di diffondere, soprattutto a proporle per discuterle. Mi sono dimenticato prima, e le chiedo scusa, le prendo altri 30 secondi, di un altro cardine essenziale della nostra proposta, che sono le preferenze. Preferenze che possono essere negative, e questo è molto importante, spero che la collega Serracchiani lo capisca, perché siamo in un paese in cui il voto di scambio politico mafioso è abnorme e lo stiamo vedendo, la corruzione parte tutta anche da lì, e quindi un elettore che vota una forza politica all'interno della forza politica votata può cancellare sino a due, uno o due candidati. Mi dicono, prendendo una quota di voto al partito votato. Toninelli, io le lancio una provocazione e lei mi risponda con una battuta. Quindi Renzi per Grillo non è più lebetino? Ma questa, siamo su un piano completamente differente. Io penso che oggi sia stato spiegato chiaramente in conferenza stampa. Noi abbiamo trasformato, e l'abbiamo fatto noi in particolare, le elezioni europee in elezioni politiche. Le elezioni politiche non le abbiamo vinte noi, non le abbiamo neanche straperse, e le ha vinte Renzi. Di conseguenza, per coerenza, noi oggi diciamo che Renzi è un interlocutore che ha maggiore legittimità politica a governare rispetto a prima. Chiarissimo. Le nostre proposte gliele presentiamo per ottenere un buon risultato, non come ha fatto Renzi e Berlusconi con l'Italicum per loro due e contro il Movimento 5 Stelle, ma per un buon risultato per il Paese, per far ben governare il Paese. Chiarissimo, io la ringrazio, poi ci aggiorniamo quando ci sarà questo incontro, onorevole Toninelli. Benissimo, io ringrazio voi. Grazie, grazie, buon lavoro. Ci dobbiamo proprio fermare, la pausa pubblicitaria è un po' in ritardo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, le ricordo in pochi secondi, Roberta Giordano sempre con voi. Il delitto di Yara Gambirasio: Alfano ha annunciato che è stato fermato l'assassino, un muratore quarantenne del Bergamasco con tre figli. Poi la famiglia sterminata vicino Milano: è stato il marito a uccidere moglie e figli poiché innamorato di un'altra ma non corrisposto. Renzi all'assemblea di Confindustria di Vicenza Verona dice: contro la corruzione ci vogliono regole chiare. E sulla legge elettorale Grillo insiste: noi vogliamo fare sul serio. Schumacher è fuori dal coma, sarebbe il primo passo lungo la ripresa. Quindi l'avete sentito di questo caso, che possiamo dire addirittura banale ormai, quando viene uccisa una donna, magari anche coi figli, ma anche solo la donna stessa, si va a cercare, diciamo, abbastanza, molto vicino ormai. Si parla da tempo di femminicidio, una volta si diceva delitto passionale, cerchiamo anche come giornalisti di lasciar perdere questa espressione così ingiusta anche nei confronti delle vittime. E avete sentito quindi a Motta Visconti, vicino Milano, un uomo che ha ucciso la moglie e i due bambini, li ha sgozzati in casa, poi ha inscenato una rapina, si è lavato, è andato a vedere la partita e poi dopo i carabinieri, insomma, l'hanno torchiato per tutta la notte, alla fine ha confessato. Professor Claudio Mencacci, buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Presidente della Società Italiana di Psichiatria, io non so cos'altro ancora c'è da dire su questi casi, professor Mencacci. Ma io aggiungerei la prima espressione è questa, che la famiglia è il luogo della tragedia. Questo lo cito perché un signore di nome Aristotele, oltre 2400 anni fa, citò questo dramma, e tutte le volte che si ripete questa banalità del male, perché dobbiamo chiamarla così, sembra quasi che quando dicono non ci sono sospetti, si procede a 360 gradi, tutti sappiamo a che cosa stanno puntando. E drammaticamente tutte le volte abbiamo questa conferma che ormai oltre il 70% degli omicidi sono all'interno della famiglia. E poi da parte degli uomini nei confronti delle donne, diciamo, questo, no? Questo è il dato drammatico. Nel nostro paese, ormai lo ripeto da tempo, ci sono meno omicidi, meno il 30% rispetto solamente a 20 anni fa, si muore molto di più in famiglia. Questo è il dato drammatico, di cui dobbiamo tener conto. Quello che sconvolge la coscienza di tutti noi è la freddezza, la determinazione, la lucidità con cui questo uomo, senza nessuna parvenza, e questo ci tengo a ribadirlo, di follia, ha inscenato quello che è una tragedia, l'ha portata a termine, con il senno di chi osserva vediamo la drammatica banalità con cui l'ha commesso, ma non dimentichiamoci che è andato alla partita, è esultato della vittoria dell'Italia, è tornato a casa come se nulla fosse. Questo è la vera luogo della tragedia. La tragedia è la tragedia dei sentimenti, senza nessun senso lontano di pentimento o di, in qualche modo, di ripensamento. Come si cambia questa mentalità maschile, professor Mencacci? Si cambia da un lato non dando più nessuna giustificazione, non appellandoci più neanche a quelle interviste. Direi che questa è anche un'operazione dei media in cui intervistano i vicini e la descrizione è famiglia, sereno, contento, famiglia perfetta, bambini, che nessun problema. Ma la questione è che il male, così come questa sorta di tragedia, non ha bisogno di problemi, ha bisogno che ci sia una condizione di aggressività, e un'aggressività che abbiamo visto anche altre volte, seguita a un momento di intimità. Non dimentichiamoci questo particolare, il nostro Parolisi con la moglie, la Melania Rea, tante altre situazioni. E anche in questo caso sì, c'era stato un momento intimo poco prima. E poi, accoltellata alle spalle con ferocia fino al taglio della gola. Questo ci deve far comprendere quanto, odio, risentimento, aggressività cova in questi uomini che non si fermano davanti a nulla, nessun momento di tenerezza, e contemporaneamente pensano, e qui in senso totalmente irreale, che liberarsi dalla famiglia cosiddetta dagli altri felice possa finalmente farli ricongiungere con un amore non corrisposto, perché la versione dei fatti sembrerebbe per ora è questa. Professor Claudio Mencacci, io la ringrazio, e purtroppo torneremo a parlare, penso, di questi argomenti, purtroppo. Drammaticamente sì. Grazie professore, buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È tempo di parlare di Europa e di questioni anche alimentari, dalle escherichie coli e residui di pesticidi sui prodotti vegetali, no, alla carne equina, ne avete sentito parlare, sono tante le insidie che possono nascondersi nei prodotti alimentari e sulle quali vigila il sistema dell'Unione Europea di allarme rapido per gli alimenti e mangimi, un meccanismo che ha appena compiuto 35 anni e che in futuro guiderà anche la lotta contro le frodi alimentari. Europa 24 notte. Verso le europee. Fragole con l'epatite A, carne di cavallo contraffatta, frutta e pesticidi, mozzarella blu sono solo alcuni degli scandali alimentari che l'Unione Europea ha sventato grazie al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, un organismo che vigila ogni giorno su quello che arriva sulle nostre tavole. Ebbene il RASF, questo l'acronimo, ha compiuto in questi giorni 35 anni e per l'occasione è stato anche presentato il rapporto annuale 2013. Si tratta in sostanza di un meccanismo che consente il rapido scambio di informazioni tra gli Stati e la Commissione nei casi in cui si rilevino rischi per la salute umana nella filiera degli alimenti e dei mangimi e quindi di agire in modo più rapido e coordinato per risolvere tali rischi, così come spiega Tonio Borg, commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori. A central tool to ensure that our food is safe, both as regards the food which we ourselves produce and the food which we import as well. We still have one of the best systems of food safety in the world. Il RASF, spiega il commissario Borg, è uno strumento fondamentale per il controllo sulla sicurezza degli alimenti, sia su quello che l'Unione Europea produce, sia su quello che importa. Il meccanismo è uno dei migliori al mondo perché la sorveglianza è a 360 gradi. RASF is a round-the-clock surveillance. Surveillance in alerting member states, in follow-up action, and also in traceability to take the necessary steps whenever there's a problem. Nel 2013 sono stati 596 gli allarmi, 1462 le notifiche di respingimento alla frontiera, notifiche che possono portare al richiamo, al ritiro, al sequestro e alla distruzione dei prodotti. Una delle minacce più consistenti è stata la presenza del virus dell'epatite A in miscele di bacche e fragole, ma il rapporto racconta anche di reazioni provocate da integratori alimentari con ingredienti pericolosi, di presenza di batteri fecali nelle carni e residui di pesticidi su prodotti vegetali. 2013 was the year where we had the horse meat scandal, and therefore the attention shifted from food safety to food fraud. Ma il 2013, spiega il commissario Borg, verrà ricordato anche come l'anno dello scandalo delle carni equine utilizzate al posto di quella bovina. Sebbene non siano stati individuati rischi per la sicurezza alimentare, il sistema RASF è servito a garantire che tutte le informazioni sui prodotti alimentari adulterati con carni equine siano state prontamente condivise. In questo caso però non si deve parlare di sicurezza alimentare ma di frode. So we are temporarily using RASF even when there is not no food safety issue, but a food fraud issue, until we set up our own IT system specializing on food fraud, which will be up and running next year. Come reazione a questo scandalo, la Commissione europea ha istituito un network per le frodi alimentari all'interno di RASF e sta mettendo a punto un sistema informatico autonomo analogo a RASF che debutterà nel 2015. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E c'è il nostro Dario Ricci dal Brasile, è andato male, malissimo per il Portogallo. Ronaldo dov'era? Non aveva i capelli a posto stasera, Dario, scusami. Purtroppo, cara, un saluto intanto da Mangaratiba, da Ritiro Azzurro. Ciao. Tutti i capelli, non ha un ginocchio a posto, Ronaldo. Allora è veramente un peccato quando un campione di quel livello non può esprimersi al meglio, no, per lo spettacolo. Quindi poi veramente sta 4-0 è finita. 4-0, poi uno espulso, due infortunati, Ronaldo che sta così, insomma, tanto merito alla Germania che è stata una prova di forza, quanto certo la sfortuna giornataccia. Senti, invece Nigeria, Iran-Nigeria, una partita particolare tra due stati musulmani, l'Iran vabbè, da tempo la Nigeria lo sta diventando, ma leggevo che all'Iran l'allenatore ha proibito di scambiarsi la maglietta alla fine perché erano una sola per uno, poi basta, è chiusa la faccenda. Hai sentito questa cosa qua? Insomma, dovranno pure sbrigarsi a fare la lavatrice per il match successivo, però finora in casa partita anche divertente perché equilibrata 0-0, l'Iran tra l'altro è anche andata vicino al gol, Nigeria che comunque a livello mondiale ha, e anche a livello africano ha una notevole tradizione, quindi tra, sempre tra le squadre più brillanti del contingente africano. Quindi insomma partita, cioè, il mondiale a 32 squadre regala anche questi accoppiamenti, alcuni sono favorevoli, altri no, perché chiaramente più squadre partecipano più matematicamente la qualità si abbassa. Certo. Però, insomma, vedremo come andrà a finire, Dario Ricci, e ci aggiorniamo domani sempre dal Brasile. Come si saluta? Domani, come si saluta? Salutaci in brasiliano. Buonanotte da Mangaraciba. Buonanotte pure a te, Dario Ricci. Ciao caro. Buonanotte, ciao ciao. Invece adesso cerchiamo di capire che tempo farà il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, sì, tempaccio terribile. Sì, eccomi qua. Buonasera, bene. Proseguirà purtroppo questo tempo instabile che abbiamo visto negli ultimi giorni, tempo instabile con rovesci e temporali che interesseranno però soprattutto il centro-sud e temporale anche di forte intensità sulla Puglia e sulla Calabria. E le temperature seguiteranno a restare al di sotto della media, temperature direi gradevoli, quindi non soffriremo il caldo, vediamo anche questa risvolta della medaglia. Poi un fine settimana all'insegna quasi ovunque del bel tempo, ma attenzione che tra domenica e lunedì invece il bel tempo sarà accompagnato dal caldo africano perché ritorna l'anticiclone appunto nordafricano. Grazie colonnello, una capacità estrema di sintesi, su tutto il resto su www.meteogiuliacci.it. Colonnello Giuliacci, ci sentiamo venerdì, ci aggiorniamo. Sì, ciao, tempo. Roberta, buonasera. Ciao colonnello, ci fermiamo per ritrovarci tra pochi istanti.